231. Gnocchi alla romana. Questi gnocchi, che io ho modificato e dosati nella seguente maniera, spero vi piaceranno come sono piaciuti a quelli cui li ho imbanditi. Se ciò avviene, fate un brindisi alla mia salute, se sarò vivo, o mandatemi un requiescat, se sarò andato a rincalzare i cavoli. Farina grammi 150, burro grammi 50, cacio gruyera grammi 40, parmigiano grammi 20, latte mezzo litro, uova numero 2. Si dice che a tavola non si dovrebbe essere in meno del numero delle grazie, né in più del numero delle muse. Se vi aggirate intorno al numero delle muse, raddoppiate la dose. Intridete la farina con le uova e col latte versato a poco per volta entro una cazzaruola. Aggiungete il cacio gruyera a pezzettini e mettete l'intriso al fuoco mescolando continuamente. Quando sarà assodato per la cottura della farina, salatelo e aggiungete la metà del detto burro. Lasciate che il composto ghiacci e poi, nella stessa guisa degli gnocchi di farina gialla, mettetelo a tocchetti in un vassoio che regga al fuoco e conditeli via via col resto del burro a pezzetti e col parmigiano suddetto grattato. Ma non alla superficie, perché il parmigiano col fuoco sopra prende l'amaro. Rosolateli sotto ad un coperchio di ferro o nel forno da campagna e serviteli caldi.